e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Il 28 novembre si celebra la giornata del Parkinson e noi giochiamo d'anticipo, ne parliamo oggi. Stiamo parlando della seconda patologia neurodegenerativa più diffusa dopo l'Alzheimer. Sono circa 300.000 le persone che nel nostro paese hanno ricevuto diagnosi. Sono per lo più maschi, di età compresa tra i 59 e i 62 anni, ma l'età di esordio si sta abbassando sensibilmente. I ricercatori stanno facendo luce sulle cause e passi avanti sono stati fatti per individuare precocemente la malattia, ma ci sono anche delle buone novità sul fronte della prevenzione. Le ultime ricerche, ad esempio, dimostrano che praticare con regolarità un'attività sportiva riduce del 43% il rischio di sviluppare la malattia di Parkinson, mentre le persone con Parkinson che praticano uno sport riducono del 70% il rischio di cadute, che è la loro più comune causa di accesso al pronto soccorso, e migliorano anche l'umore. 800 24 00 24 per saperne di più e per trovare una risposta ai vostri dubbi, ma anche per raccontarci le vostre esperienze. Nella nostra seconda parte della puntata, invece, come ogni giovedì, arriva la nostra rubrica Investire Informati. Oggi un appuntamento dedicato alle figure professionali che ci seguono nella gestione del nostro risparmio. Sta nascendo infatti l'albo unico dei consulenti finanziari, che però è in una fase molto delicata questa nascita, perché non mette molto d'accordo i professionisti del settore. Sappiamo che ci sono alcune differenze, alcuni termini che ci eravamo abituati ad usare, ve ne abbiamo parlato spesso, promotore, consulente indipendente. Oggi capiremo come stanno cambiando le cose, cercheremo di farlo mettendoci dalla parte del risparmiatore che potrebbe essere un po' disorientato. Come sempre cercheremo di fare chiarezza. 800 24 00 24 se siete dei risparmiatori, noi speriamo naturalmente che lo siate tutti, ma anche, e sappiamo che molti di voi vorranno intervenire, se siete operatori del settore e avete piacere di parlare con noi di queste novità. Allora, ogni anno in Italia circa 6.000 persone vengono colpite dalla malattia di Parkinson. Il numero è destinato ad aumentare, ma c'è di più. L'età di esordio si è abbassata sensibilmente e attualmente un paziente su quattro ha meno di 50 anni, il 10% ha meno di 40 anni. Numeri questi che leggeremo insieme al nostro esperto, ma con cui commenteremo anche delle buone notizie. Da queste voglio iniziare presentandovi subito l'esperto di oggi che ci accompagnerà in questa prima parte della trasmissione. Saluto il professor Pietro Cortelli, ordinario di neurologia all'Università di Bologna e direttore del centro Parkinson presso la stessa università, che è venuto qui con noi oggi ad anticipare la giornata del Parkinson, che si celebra il 28 novembre prossimo, che è organizzata dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus e dall'Accademia LIMPE d'Ismo. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Professore, non avete ancora fatto piena luce sulle cause di questa malattia, ma sapete come si può ridurre il rischio di ammalarsi, è così? È abbastanza così. Da un punto di vista delle ricerche, diciamo, sperimentali sulle cause per cui alcune parti del cervello tendono a invecchiare in maniera e con una velocità differente, oggi ci sono molte idee anche innovative, ma siamo nel campo ancora completamente sperimentale e difficile da traslare in qualcosa di pratico nei nostri ambulatori. Mentre invece, diciamo, è molto aumentata la nostra capacità di trattare i disturbi, sì, che la causa principale di questa malattia provocano. E sono disturbi che naturalmente sono poi alla base della disabilità e dell'alterazione della qualità della vita dei nostri pazienti, e cui trattando i disturbi, anche se non fermiamo completamente la malattia, effettivamente oggi l'aspettativa di vita di un paziente che ha questa malattia è uguale a quella di un suo collega che non ce l'ha, grazie proprio al trattamento precoce e composito della malattia stessa. Quindi abbiamo delle buone armi. Avete delle buone armi. Io ho aperto la puntata dando una buona notizia, ed è l'attività fisica risulta svolgere un ruolo protettivo e preventivo. Professor Cortelli, mi aiuta a leggere bene ed andare nel dettaglio di questa buona notizia, perché lo stile di vita, tante volte i medici lo ripetono, lo ricordano, i dati lo dimostrano, svolge un ruolo molto importante per la prevenzione e anche la protezione della nostra salute e anche per quella della salute del nostro cervello. Assolutamente, ma direi che nel caso della malattia di Parkinson è stato fatto ancora di più, cioè nel senso che ci sono molti dati in letteratura che dimostrano che l'attività fisica regolare è un ottimo preventivo di moltissime malattie. Però questo studio svedese, che è straordinario per la sua complessità, cioè nel senso che sono pazienti che sono stati seguiti per più di 13 anni, quindi no, scusi, non pazienti, sono soggetti normali, sì, che sono stati seguiti dal 1997, sono più di 34.000 persone, e allora nel 97 fecero un questionario molto preciso su tutta l'attività fisica che erano in grado e che facevano per loro abitudine, per cui c'erano persone che la facevano di più, persone che non la facevano per niente, persone che la facevano un poco. Seguendoli nel tempo, dopo 12 anni, sono riusciti a valutare che c'erano circa 200 persone che erano evolute nella malattia di Parkinson, e questi in specifico avevano una riduzione netta dell'attività fisica, ma non per esempio delle ore di divertimento o di svago o anche del tipo di lavoro, perché c'era l'idea che se uno faceva un lavoro più diciamo con più attività fisica potesse essere paragonabile all'attività fisica. No, no, questo lavoro dice proprio in maniera chiara e limpida che ci vuole un'attività fisica adattata e di un certo tipo per avere quell'effetto positivo che ormai è stato dimostrato. Quindi la notizia è buona, ma nel caso della malattia di Parkinson è ancora più specifica. È uno studio che è molto molto molto bello, tra l'altro è stato pubblicato in uno dei migliori giornali di neurologia, Brain, e avuto ovviamente la risonanza mondiale che si merita. E non a caso, professor Cortelli, il movimento è proprio il tema della giornata del Parkinson di quest'anno, che ha come testimonial un grande campione che tutti noi portiamo nel cuore, anche noi a cuore denari, il nostro Signore degli Anelli. È vero, che abbiamo già avuto il piacere di avere quest'anno una volta con noi in un altro contesto, perché lui si presta naturalmente a molti ambiti con la sua testimonianza, le sue consulenze. Diamo il benvenuto a Yuri Checchi. Ciao Yuri. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, a tutti. Ciao. Buongiorno, grazie per essere ciao, con Yuri. Noi. Prof, buongiorno. Anche il prof ti saluta, insomma, sì. Siamo tutti in famiglia, tu sei un testimonial, Yuri, che non si limita a mettere la faccia, ti sei attivamente impegnato in progetti che mirano proprio a recuperare attraverso la riabilitazione motoria i malati di Parkinson, che guadagnano qualità di vita anche, e qualità di relazione, e quindi anche l'umore ci guadagna ed è un aspetto molto importante. Ci vuoi raccontare di questa tua esperienza? È proprio così, sai. Diciamo che sull'aspetto preventivo il professore ha espresso in maniera anche molto chiaramente didattica e precisa, e c'è una letteratura specifica appunto che dimostra quanto è importante, direi un po' per tutti, ma in questo caso anche per la prevenzione della malattia di Parkinson. Devo dire che per l'esperienza che ho avuto invece è altrettanto importante anche quando è in corso la malattia, e devo dire anche in corso, diciamo, in uno stato avanzato, una attività motoria, chiaramente insieme a una attenta alimentazione, ma un'attività motoria adattata alle varie esigenze evidente, consente di migliorare molto lo stile di vita di questi pazienti. E mi permetto di dire non solo dei pazienti, ma soprattutto anche dei loro caregiver, cioè dei, diciamo, gli accompagnatori, perché quando sta meglio il paziente, da un punto di vista fisico e anche umorale, evidentemente sta meglio la persona che sta con lui 24 ore su 24, questo è chiaro. E quindi devo dire che è stata un'esperienza fatta in maniera quasi, diciamo, casuale, ma che mi ha talmente coinvolto e appagato, perché i risultati si sono visti concreti, che ho detto sì, diamo una mano a questo progetto, a questa idea della giornata nazionale del Parkinson, che appunto sarà sabato prossimo, perché credo ci sia bisogno di stimolare la conoscenza e anche le opportunità, quindi anche con un'operazione di fundraising, insomma di solidarietà, per cercare di migliorare un po' tutta la condizione dei malati di Parkinson, anche e soprattutto attraverso l'attività motoria. Attraverso l'attività motoria, attraverso, come sottolineavi bene Yuri, l'informazione, è opportuno parlare, informarsi su questa malattia che ci fa tanta paura, perché tutte le malattie neurodegenerative in modo particolare, no? Ci tendiamo un po' ad allontanare l'idea, a scotomizzarle, in realtà bisogna conoscerle, affrontarle, sostenere soprattutto la ricerca, che ha prodotto, come anticipava il professor Cortelli, degli ottimi risultati anche nel trattamento della malattia. Yuri, tu ci hai promesso che verrai a trovarci, diventerai l'ospite d'onore della nostra puntata. Testimonial di cuore denari. Testimonial di cuore denari. No, quindi sono stato io che mi sono proprio proposto, perché mi seguo sempre, sapete benissimo, esatto, con tanto piacere e affetto, quindi mi sono proposto e se accettate la mia proposta, volentieri sarò ospite. Volentieri, grazie. Allora, no, grazie a Yuri Checchi. Grazie a voi. Un abbraccio, a prestissimo. Noi continuiamo ad affrontare questo tema insieme al professor Cortelli. Naturalmente aspettiamo le vostre testimonianze all'800 24 00 24. Questa vuole essere una puntata di informazione, di sensibilizzazione, vuole essere anche l'occasione per così raccontare in diretta i nostri dubbi, le nostre paure, verificare se quella sensazione che avvertiamo deve essere, oppure quel sintomo che magari è un po' sospetto, può essere un segnale, un sintomo da riferire al medico, oppure assolutamente rientra nella normalità. Quindi mano alla cornetta, come dice Deborah. 800 24 00 24, a tra poco insieme al professor Pietro Cortelli. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi stiamo giocando d'anticipo, parliamo di Parkinson perché sabato 28 sarà celebrata la giornata nazionale della malattia di Parkinson organizzata dall'Accademia Limpe di Smov. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Pietro Cortelli. Professore, abbiamo parlato di movimento e vorrei continuare a parlare del ruolo di fattori protettivi. A lungo, ad esempio, si è parlato del ruolo del fumo e di quello del caffè. Sembra strano, no? Che il fumo, che è causa di una serie di patologie anche mortali, possa fare qualcosa di buono. Che cosa lo lega al Parkinson? Allora, qui c'è effettivamente... Qua si apre un librone, professor Cortelli? Infatti, però... Sostanzialmente bisogna distinguere i due effetti, quello della caffeina e quello del fumo sono due effetti totalmente indipendenti, sì. E diciamo che quello della caffeina è origine oggi della nascita di nuovi farmaci. Quello del fumo ce lo togliamo subito dal nostro piano di lavoro, perché in realtà è un'associazione statistica, cioè si vede anche lì in gruppi seguiti per molto tempo, anche molto numerosi, che diciamo tra i soggetti che non fumano ci sono più pazienti, soggetti che virano verso la malattia di Parkinson. Sì. Però nel tempo si è capito che in realtà molti di questi erano fumatori che hanno fatto molto in modo molto facile e semplice lo stop del fumo. Cioè, quello che sembra legato non è tanto l'effetto della nicotina, sì, ma è il fatto che probabilmente l'alterazione della dopamina non danno lo stesso gusto del fumo, per il quale uno poi diventa in qualche modo dipendente. E quindi diciamo che uno che poi sviluppa il Parkinson è uno che può facilmente smettere di fumare rispetto a uno che non lo è. Quindi non è che possiamo dire continuo a fumare perché ho sentito dire che in qualche modo protegge dal Parkinson. Questo non è questo ce lo togliamo. Mentre per il caffè, professore, questa settimana l'abbiamo sdoganato più volte, ma vero? Sì, ma è diventato e sembra l'elisir di lunga vita, sempre al centro di nuove allora ricerche. Io vivo 150 anni, ve lo dico. Mamma mia, mi piace. Bisognerà spararti. Lo è. La caffeina è un farmaco molto attivo e naturalmente, come tutte le cose che sono attive sul sistema nervoso centrale, questo succede perché nel nostro cervello abbiamo un sistema che di per sé funziona così. Sì. I nostri neuroni si producono una cosa che è molto simile al caffè, alla caffeina. Dai, vedi che si fanno il caffè da soli i neuroni, per tirarsi un po' su. La loro macchinetta e via. Intrinseca. Bene, questa sostanza agisce su questi recettori che hanno un ottimo effetto su alcune fasi della malattia. Addirittura diciamo che il topo che non esprime questi recettori, perché oggi si possono costruire dei costrutti genetici particolari, non ammalano, non si riesce a fare ammalare di Parkinson, per cui si pensa che questo abbia un forte ruolo protettivo. E quindi vabbè, ovviamente come tutte le cose non è che se fa bene dobbiamo prenderne nitrate, quindi perché poi appena fa bene allora insisto, anche per il cuore avevano stabilito 5 tazzine. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per raccontarci la vostra esperienza di caregiver, per trovare risposta a un vostro dubbio, per avere un chiarimento. Professor Cortelli, abbiamo parlato dell'importanza del movimento come fattore protettivo e preventivo della malattia. Io adesso vorrei parlare con lei del movimento, o meglio dei sintomi motori del Parkinson. E nell'immaginario collettivo il Parkinson coincide con il tremore. Allora stanno già arrivando dei messaggi dei nostri ascoltatori che vogliono capire, no? Ma io tremo, ho avverto un leggero tremore ad una mano, perché raccogliamo delle informazioni leggendo, ascoltando, no? Sembra che ci siano dei sintomi, tra l'altro oltre al tremore alcuni che non sono motori, molto diffusi, che possono essere anche segnali di disturbi, ma non necessariamente seri, che vengono intercettiamo e che poi quando manifestiamo ci allarmano un po'. Allora oggi li prenderemo un po' insieme tutti in esame con il professor Cortelli, per cui fuori tutti i vostri dubbi: tremore, sindrome delle gambe senza riposo, insonnia, sono tutti dei segnali che in qualche modo ci allertano e ci allarmano. Possiamo andare da Giovanni da Napoli? Sì, perché dici? Forse ha un sintomo un po' particolare, perché che può essere associato a questi che già indicavamo, no? Giovanni, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno. Professore, io in pratica avverto questo sintomo, mi lasci passare il paragone, ma di sera quando vado a letto, ecco, che quindi comincio ad addormentarmi, è come se mettessi le dita nella corrente per un istante, per un attimo, così una frazione di secondo proprio minima, e sento, ecco, questo sobbalzo su tutto il corpo, cioè dalla testa ai piedi. Non so se eventualmente associarlo anche alla caffeina. Io perché quanti caffè beve Giovanni? Mi agita tantissimo, e appena ne bevo una tazzina ecco al giorno, o a volte capita proprio in casi estremi di berne la seconda, io sto malissimo. Giovanni, però con le sfogliatelle non ha nessun problema, me lo dica. Con le sfogliatelle quelle le mangi in continuazione. E allora Giovanni, posso chiedere? Sì, faccio una domanda. Ho 46 anni e ho due parenti in famiglia che hanno l'Alzheimer, ecco. Allora in pratica quanto tempo ha questo disturbo, signor Giovanni? Ma questo disturbo io penso che è da un paio, due o tre anni, però nelle ultime settimane vedo che si sta verificando più frequente. Allora, professore, noi ci fermiamo, lei resta con noi, tremore, ma non solo, 800 24 00 24 per tutti i vostri dubbi, dopo il GR, il professor Cortelli, apriamo le linee, risponde e vi dà indicazioni. A tra poco. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. cuore e denari. Eccoci tornati insieme, ultimi minuti in compagnia del professor Pietro Cortelli per parlare della malattia di Parkinson. Ci sono dei segnali premonitori? Professor Cortelli, se lo stanno chiedendo molti nostri ascoltatori. Iniziamo a rispondere all'ascoltatore che prima del nostro GR raccontava che ogni sera quando va a letto è preso da una sorta di scossa elettrica. Ha dei casi in famiglia, lui ha detto di Alzheimer, ma comunque anche l'idea, no, della familiarità di queste malattie preoccupa. Professore, le lascio la parola e poi apro i centralini. Dunque, no, quello che raccontava il signor Giovanni ha a che vedere con alcune piccole alterazioni motorie che avvengono nel passaggio dalla veglia al sonno. Queste non hanno nessuna previsione di malattie future e non sono legate assolutamente. È un po' paragonabile a quella sensazione di cadere nel vuoto che abbiamo avuto tutti qualche volta prima di addormentarsi. Ecco, quindi con questo cenno lei risponde almeno a una decina di SMS, per quindi vede come siamo risparmiosi qua, basta una parola ottimizzato. E quindi Giovanni deve stare tranquillo. Assolutamente, cioè quello che ha non ha niente a che vedere con malattie future, non è predittivo di nessuna malattia, incluso l'Alzheimer. Se dovesse diventare troppo disturbante per il sonno, il neurologo è capace di fare dei brevi trattamenti per facilitare, senza usare sonniferi ovviamente, ma per facilitare la transizione dalla veglia al sonno. Professor Cortelli, nell'immaginario collettivo il Parkinson coincide col tremore, no? Ma attenzione, sì, non tutti i tremori sono segno di Parkinson. Credo che una distinzione rapida sia molto utile, però tremore, sì, si può tremare anche la mano. A proposito, abbiamo parlato di caffè, sì, no? Sarà capitato a tutti, no? Tirare sulla tazzina del caffè e vedere che leggermente trema, oppure dopo uno sforzo tendiamo le mani e vediamo che tremano e quindi ci si preoccupa un po', specie se c'è un caso in famiglia, così accenniamo anche al discorso della familiarità che è un tema molto richiesto dagli ascoltatori. Dunque il tremore è certamente uno dei sintomi più appariscenti, ma non è l'unico e non si può dire che tutto ciò che trema è Parkinson e viceversa, che non è Parkinson tutto ciò che non trema, anzi diciamo che è presente nel 65% dei casi, specialmente all'inizio. E quando è presente è un tremore molto particolare, un tremore asimmetrico che tende a comparire soprattutto all'arto superiore, sono più rari i casi all'arto inferiore, e che diciamo diventa ben evidente quando il paziente è distratto. Quindi a riposo possiamo dire. A riposo, cioè, infatti noi in ambulatorio, dove bene o male un paziente non è mai proprio rilassato, perché comunque è dal medico, abbiamo dei piccoli trucchi tipo far contare da 100, togliere 7, per distrarre la mente e così si vedono le cose diciamo spontanee. Certo. Il tremore è la tipica cosa che poi viene si può vedere. È un tremore che ha una frequenza specifica intorno ai 6 cicli al secondo, 6 Hz, ed è un tremore che assomiglia, secondo la vecchia descrizione di Parkinson del 1817, a uno che conta le pillole. Quindi non ha niente a che vedere col tremore d'azione, col tremore da caffè, col tremore da stress. Stiamo tranquilli. Il tremore da adrenalina, tutto quello che l'adrenalina provoca tremore, ma naturalmente provoca tremore bilaterale ed è un tremore di molto più frequente, di piccola ampiezza. Il neurologo lo distingue immediatamente. Ecco, il neurologo che è la figura di riferimento per in presenza, vero? Sì. Bisogna andare da persone che si occupano proprio di questo. Tra l'altro, professore, lei insieme al suo gruppo di ricerca ha messo a punto un metodo semplice, economico, non invasivo per distinguere la vera malattia di Parkinson dai cosiddetti parkinsonismi. È stato ribattezzato dalla stampa il test della stretta di mano, sì, e questo è il nome corretto, no? Questo non significa che noi stringendoci la mano io e Deborah riusciamo a farci un'autodiagnosi. Però dato che è un torna questa cosa della apre delle suggerisce delle idee questo test della stretta di mano. Ce lo spiega per favore? Sì, insomma, in sintesi noi abbiamo una parte del nostro cervello che fa delle cose senza che noi lo sappiamo, senza che noi ne abbiamo coscienza. Una di queste si chiama il sistema nervoso vegetativo. Una delle cose che fa è quello di regolare il cuore e la pressione. Per cui se io ti faccio stringere una mano per 3 minuti, il cuore e la pressione si modifica in un certo modo. Il paziente all'inizio con Parkinson ha delle modificazioni che sono tipiche. Per cui con questo studio del sistema nervoso vegetativo, che si può fare in diversi laboratori di neurofisiologia che sono presenti nelle nostre neurologie su tutto il territorio nazionale, abbiamo dimostrato su grandi numeri che effettivamente aiuta quando c'è un dubbio diagnostico, sì, aiuta a dire se uno ha un Parkinson puro o meno. Quindi certo, questo è il famoso test dell'aspetto di mano. Si tratta di vedere come il vegetativo controlla la pressione e la frequenza cardiaca. Professore, ci sono dei segnali che non sono necessariamente espressioni di malattia, ne stiamo parlando, ma che possono spingere la persona che ne soffre o il suo medico curante a suggerire una visita neurologica, no? Abbiamo parlato del tremore, ma non sono solamente sintomi motori, penso ai disturbi del sonno, specie nella fase REM, alla perdita di olfatto, alla stipsi, ma anche alla depressione. Sono segnali diffusi, no? Come facciamo a fare una distinzione? Che cosa deve destare la nostra attenzione? Quali sono soprattutto le situazioni e le condizioni che dovrebbero essere portate e riferite al medico, al neurologo direi? Allora, io penso che adesso come adesso bisogna andare dal neurologo quando si hanno i primissimi sintomi motori, quindi un rallentamento, un impaccio motorio, un piccolo tremore, tutto questo va verificato al neurologo. È vero anche la scrittura, professore? Esatto. Adesso non scriviamo più, scriviamo sempre da tutti. Mamma mia, le nostre firme sono tutte veramente che sembrano da persone che hanno tremori alle mani perché non siamo più abituati. Però al neurologo la guarda anche, vero, la scrittura? Ne avevamo parlato con un suo amico, il professor Barbanti, che se ci sente ricordiamo e salutiamo. Anche nostro amico però. Certo. Anche mio amico. Questo lo so perché sono amici cari. Professore, anche la scrittura, vero? Sì, certo. Soprattutto noi confrontiamo la scrittura, diciamo, precedente e quella attuale, perché diminuisce d'ampiezza. Quindi al di là di come uno scrive non è tanto l'ortografia, ma quanto l'ampiezza di determinate lettere come la L, la T, eccetera, che tendono a diventare più piccoline. Però da un punto di vista diciamo diagnostico bisogna specificare bene che ci sono una serie di sintomi che sono molto interessanti per capire la malattia prima che vengano i sintomi motori, la cosiddetta fase preclinica, che dovrebbe iniziare circa 10-15 anni, ma in realtà poi con precisione non lo sappiamo, prima dei sintomi motori. E questo sarà importante nel momento che avremo dei farmaci che bloccano lo sviluppo della malattia, ma certo, oggi non li abbiamo, e quindi individuarli anche attraverso segni che oggi sappiamo essere specifici, cioè chi ha la malattia di Parkinson è più facile che abbia i sintomi a cui ti riferivi prima, cioè disturbi, non so, dell'olfatto, va di corpo più raramente, ha un sonno alterato, ma non, come diceva il signor Giovanni, con altre cose. Sì, la famosa sindrome delle gambe senza riposo, che è quella frenesia che alcune persone avvertono, che si chiama, no? La racconta bene, sindrome delle gambe senza riposo, le gambe vogliono muoversi e fin quando non ci alziamo a fare due passi, continuano, no? Sentiamo queste. Ecco, è in qualche modo ha una relazione, è un campanello d'allarme, che così tranquillizziamo anche le persone che ci stanno scrivendo, perché è una malattia abbastanza diffusa, anche no? Anche lì è proprio quello che dicevo, cioè se uno parte da una popolazione di malattie di Parkinson, è più presente la sindrome delle gambe senza riposo nei soggetti che hanno già il Parkinson rispetto alla popolazione generale. Ma se uno parte dalla popolazione generale, quelli che hanno la restless, cioè la sindrome delle gambe senza riposo, non è detto che sviluppino il Parkinson, certo. Anzi, cioè, ci sono dati contrastanti in questo senso. Quindi bisogna sapere che tutti questi segni non motori, che sono di grandissimo interesse, però hanno una bassissima specificità. E quindi si fa fatica a dire a uno, perché ha quel disturbo lì, che poi svilupperà che cosa. Certo. Oggi questo non è possibile. Da però prima di dare la parola al nostro ascoltatore, ad Alessandro, Anna, una persona, professor Cortelli, che ha un caso in famiglia, lei che suggerimenti può dare? Che indicazioni sono utili? Allora, ci sono delle forme genetiche proprio, cioè in cui c'è un'alterazione che noi conosciamo del patrimonio genetico. Queste sono persone che hanno di solito una storia familiare abbastanza chiara, cioè nel senso che ci sono una serie di generazioni, il 50% dei soggetti di ogni generazione ne è stato affetto, e quindi diciamo si sa che in famiglia c'è questa malattia, bisogna rivolgersi a un centro specializzato che è in grado di individuare il tipo di anomalia genetica che è la base della malattia. Sì. Oggi non siamo sicuri, cioè, da vedere sembra un Parkinson, però oggi lo dobbiamo chiamare Parkinson genetico, perché in realtà lì non è la stessa causa di quello che invece vediamo normalmente. Sì. Che è vero, come dicevi, che esordisce prima, però ha un suo pattern diverso da quello genetico. Viceversa, se c'è un altro caso in famiglia, questo onestamente aumenta il rischio di sviluppare il Parkinson di pochissimo, e da solo come sì. fattore di rischio. E quindi io sostanzialmente dico ai miei pazienti che se ne prende nota, ma non è un fattore prognostico negativo sì. o di malattia. Allora, abbiamo Alessandro da Belluno. Buongiorno Alessandro. Oi. Alessandro, eccolo qua. Buongiorno. Allora, molto brevemente, sì. Quello che io accuso fondamentalmente è un tremore che io chiamo interno, cioè nel senso che non è percepibile dall'esterno, perché non si vede tremare, sì. però sento in realtà la muscolatura che ha una sorta di vibrazione. Questo mi accade durante il giorno, invece durante la sveglia, quindi nel passaggio tra il sonno e la veglia, sì. Accuso un tremore sempre non percepibile dall'esterno, ma con una frequenza, chiamiamola, diversa, cioè quindi è una forza diversa, mentre durante il giorno ho una sensazione lieve e con una frequenza molto alta della vibrazione, sì. Quando mi sveglio ho una frequenza molto più lenta, ma molto più forte anche come sensazione. Allora, grazie Alessandro. Professor Cortelli, di nuovo queste scosse, questi tremori, questo che c'è ma non si vede, ma io lo sento, preoccupano i nostri ascoltatori, un messaggio per tutti. Innanzitutto complimenti ai tuoi ascoltatori, vi fanno delle domande molto molto interessanti. Devo dire, questo è il problema ancora irrisolto del tremore interno, e il tremore interno non ha a che vedere molto con le malattie neurodegenerative, indipendentemente dalla frequenza, però mi sembrava dalla voce che fosse molto giovane il nostro ascoltatore. 34 anni. Molto giovane, si dice, 34 sì. anni. E Deborah, perché dato che lei è vicina a quegli anni lì, per lei certo, è normale. Come no, vicina. Però invece noi diciamo, prof, molto giovane, 34 anni, una masnà. Sì, no, diciamo giovane. Giovane. Giovane, 34 anni, spesso ha a che vedere con fenomeni che anche questi potrebbero avere un buon riscontro con la terapia fisica adeguata, ma fenomeni che hanno a che vedere con un sistema, una parte del nostro sistema nervoso vegetativo che si chiama simpatico, che è quello che gestisce lo stress, sì. è particolarmente attivo. Allora, se questo è particolarmente attivo, o perché è geneticamente predisposto, o anche, che ne so, mi è capitato una volta un signore che si beveva 2 litri di Coca-Cola al giorno. Ecco, quindi, eccola lì. Bisogna vedere bene lo stile di vita, che non ci siano degli stimolanti particolari, eccetera. Un altro stimolante che abbiamo scritto sono quelle cose che si usano, piene di caffeine per star svegli sì. la notte, no? Lì abbiamo descritto molti casi di tremori interni che poi, una volta che si sono sospese queste sostanze, spariscono. Quindi bisogna bene il proprio stile di vita. Allora, noi salutiamo e ringraziamo il professor Cortelli, perché andiamo a scuola di risparmio, certo. come ogni giovedì. Io ricordo che in occasione della giornata nazionale Parkinson, circa 90 strutture sanitarie saranno a disposizione dei pazienti, medici specialisti per informare, insomma aggiornare, incontri, open day organizzati su tutto il territorio. Per tutti i dettagli www.giornataparkinson.it. Professor Cortelli, grazie di cuore per essere stato con noi, per essere stato così chiaro. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Le auguriamo una buona giornata.